mi sembra strano che da 90 non tocchi palla, cara Carla, cioè da 90 non vedi un uomo nemmeno col binocolo. Allora, sentimi bene bene. Dimmi. Io te ti ho visto per televisione. Beh, sì, allora? Io con uno come te, ma neanche... Ma con chi ce l'ha? Con te, però. Con me, sì, ma ce l'ha. Neanche se me lo fai vedere. Ma ce l'hai con me o con Parenzo? Non ho capito. Con tutti e due. Insomma, l'hai visto pure Parenzo? Siete due mostri. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Figa Parenzo, comunque sei una merda, vai che sei incredibile. Chiedere di chiudere tutto ogni volta, essere pagato e non fare un cazzo. Ma se già non fai una minchia, ti preoccupi pure di farti pagare da Radio 24. Fai veramente schifo. Eccoci qui! Eccoci qui, caro Parenzo! Eccoci qui! Comunicazione sindacale! Che c'è? Oggi, che succede? Oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, ore 18:35, la trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, nonostante il grande successo di pubblico e di critica, oggi durerà solo fino alle 18:39. Ma non è vero, ogni volta! Sì, ti ripeto, ormai è uno sketch vecchio questo qua. Sì, no, è vero. È vero che tu ci credi. Devo andare, è vero che ci credi. Bravo, me ne devo proprio andare. No, ma è una bella, sai perché? Beh, perché è una bellissima trasmissione alla fine, quest'anno poi è buona. Ma sai cosa funziona? Cosa? Funziona il fatto che poi anche i nostri tempi, cioè le due fili. Cioè, in generale bisogna dire che funziona sta roba. Le musichette, gli stacchetti, gli audio, il pubblico che chiama. Ma cioè, scusa, è una roba irripetibile. Ma quando siccome è irripetibile, vado via. Perché naturalmente, cioè, è una robetta che tu la descrivi. Cioè, che cazzo di trasmissione è? Trasmissione dove? Dalle 18:30 alle 20:50 la gente chiama, fa, dice. Dove può succedere di tutto. Dai, può succedere qualunque cosa: audio, politica, attualità, quello che scorreggia, allora... la puttana, la. È talmente pazzesco che anche se lo dici, no, ma veramente sì, davvero, è irripetibile, però, cioè, nessuno può replicarla, la possono imitare. Allora, io per questo dico: chiudiamo qui. Ma perché lasci un segno meraviglioso? Perché è finita, basta, chiudi. Pagato però, pagato. Allora, vi sottopongo subito una questione, caro Davide. La questione è questa: è meglio Bello Figo oppure questo tizio che ho sentito ieri ad Agorà che si chiama Zorzi? Perché questa è una domanda interessante pure, no? Zorzi non Delfo, cioè, Zorzi. No, non è Delfo Zorzi, né Zorzi il pallavolista. Ecco. Cioè, né l'ex terrorista, eccetera. Ma un tizio che si chiama Zorzi, che è uno ricco di famiglia, che vive di rendita, pare che i suoi genitori gli abbiano comprato una casa nel bosco verticale a Milano, dove le case costano moltissimo, dove abita anche un signore che si chiama Bastianic, uno ricchissimo, sì, vabbè, un cuoco ricchissimo, che fa il giudice a MasterChef. No, non c'è nessun, niente di male, per carità. Però senti cosa dice questo Zorzi. Allora, la domanda è questa: perché non ve la pigliate con questo qua? Sì. No, invece che con Bello Figo? Io non me la piglio con nessuno dei due. Però perché ve la pigliate con il signor Bello Figo, che alla fine è un morto di fame perché guadagna qualche migliaia di appunto, euro appunto. Cioè, non è che sia uno ricco, il signor Bello. Anzi, ha più talento Bello Figo di questo qui. Senti che dice: mi ispiro a Vacchi e a Lapo Elkan. Bei modelli, giusto? Una persona a cui a volte mi ispiro, che magari vado a vedere per il look così, è Gianluca Vacchi. Perché lui è stato uno dei primi ad uscire in pigiama. E adesso io spesso e volentieri, cioè, io ho dei pigiami con i quali esco. Le due persone alle quali magari mi ispiro dal punto di vista di moda sono Lapo Elkan e Gianluca Vacchi. Questo qua esce in pigiama e voi ve la prendete con Bello Figo. Capito? Esce in pigiama. È assurdo. Dai, su, ragazzi, dai. Compro di tutto, cani, eccetera. Dai, su, ragazzi. Io per gli animali, specialmente i cani, vado abbastanza fuori di testa. Qui compro i vestiti, collari, cucce, ciotole per i miei cani. Questo ce l'ho. Questo ce l'ho in blu, questo non ce l'ho, questo ce l'ho in 66 colori e questo è un po' too much. Cioè, questo, ragazzi, veramente non fa nulla, niente. Nulla, ma lo dice anche nulla. È stupendo. C'ha il cappotto bello che può iniziare a costare anche migliaia di euro. Già se ne prendi due ti sei risposto. Ti dai mai dei limiti sul budget? Sul... Beh, diciamo che vengo spesso richiamato sotto questo punto di vista, perché tendo un attimo a non farci troppa attenzione. E però chi ti chiama? È il mio genitore. Perché il conto è loro? Beh, no, il conto è il mio, però i soldi sono i loro, quindi è fondamentalmente la stessa cosa. Il conto è il mio, i soldi sono loro. Compro cappotti per migliaia di... Ma va benissimo, per carità. Però, ragazzi miei, cosa... Perché ve la prendete con bello figo? Capito? Almeno questo qua è un disgraziato, lavora, piglia per il culo, sì, è vero. Magari ci prende anche in giro per il tipo di accoglienza che facciamo. Ma sarà meglio il signor bello figo? Oppure questo qua? Una domanda che vi faccio, per carità. Sì, una grande domanda, sondaggio, un grande sondaggio popolare, certo, bellissimo. Disoccupazione giovanile al 20%, dice, no, vedete, un po' di più. Comunque, vabbè. La disoccupazione giovanile si aggira intorno a... Al 20. Di? Un po' di più, quasi 30, il doppio. 40. 39 e mezzo. Veramente? Cosa consiglieresti a un coetaneo? Disoccupato? Mm. Vabbè, dare metà, adesso sono disoccupato, sono 21 anni, quindi non è un problema, sono 21 anni. A un certo punto lo portano in giro in via Monte Napoleone a Milano, vede un barbone, vede un barbone e dice: potevo essere quello e invece no. È brutto, siamo a 10 metri l'uno dall'altro, potevo essere io, cioè non è che viviamo in due mondi diversi, cioè veramente siamo a 10 metri. E questa è una cosa che comunque mi fa pensare, a cui veramente ringrazio ogni giorno e bacio dove cammino per come sono io. Mi fa pensare. Vabbè. Allora, caro Parenzo, aggiornamenti sulla vicenda bello figo. Sarò fissato, come dici tu, eh? Però parla, attenzione, sulle minacce, sui concerti soppressi, sulle accuse che vengono fatte a bello figo, sì, di pigliare per il culo gli italiani, eccetera, eccetera. Parla Don Cappuccino. Tu dirai chi è manca... il signor sì, no, infatti stavo... Don Cappuccino. Esatto, perché oggi ad esempio mi ero interessato molto, pensavo che tu ne volessi parlare del discorso di Theresa May, il premier britannico. Quello era ieri, che... però, eh. Sì, però oggi ho letto dei dettagli, capito, tutti ieri, i commenti, era ieri, ma tu vai in ritardo, l'intervista vai in ritardo, al commentatore del Financial Times. No, io voglio parlarti di Don Cappuccino. Invece, chi è questo signore di grazia? È il fratello di Bello Figo. È il fratello di Bello Figo. Detto che bella famigliola. È un nome, è uno che canta lì nel gruppo di Bello Figo. Benissimo, siamo tutti felici. Detto Don Cappuccino. Don Cappuccino. Il quale con questo, con quello che ha detto per difendere Bello Figo, non si farà amare. Non si farà amare. Senti questa prima cosa, ti prego. Italiano, vai a casa di un ganè. Senti. Suè, viva il Ghana. Oggi gioca i ghanesi. Non so tanto di cose africane, ma ho sentito che giocano Coppa Africa, no? Viva il Ghana e i nigeriani. Ghanesi e nigeriani sono i top. I ghanesi soprattutto. Noi siamo tutti piccoli, 90%, ma quando serve siamo grossi. Se tu cerchi la tua ragazza non lo trovi qui in Italia, vai a casa di un ghanese che ha affittato la casa, ti fa il culo la mattina e la sera e la sta scopando là. Vai. Il signor Don Cappuccino, caro Parenzo, signor Don Cappuccino. Ma non è un prete però. Non, io pensavo fosse un prete. Dai, su. Ma che genere, però ragazzi, che mostri che saltano fuori. Bello Figo non è stupido e non è scemo. La colpa qua non è di Bello Figo. Smettete di dire minacce di qua, minacce nessuno. Ultima serata che abbiamo fatto abbiamo avuto più carabinieri dentro, scusa, più carabinieri fuori che dentro. E chi fa le minacce non si è fatte vedere. Chi? Poi se la piglia pure con Rete 4, senti. Le interviste su Rete 4 doveva essere un'intervista normale. Invece Rete 4 cosa ha fatto? Siccome alcuni italiani sono veramente ignoranti, e io le dico, perché se sbagliano gli africani lo dico, i marocchini lo dico, gli albanesi lo dico, italiani sbagliano lo dico, sono ignoranti, hanno trasformato questa cosa a farlo essere immigranti contro gli italiani. Ma non è vero. Gli italiani ignoranti. Una volta ero a Londra e un italiano mi ha chiesto come si usava un bancomat. Sono stupidi. Don Cappuccino, ragazzi. È veramente la fine di tutto. È veramente la fine di tutto. Una volta io ero a Londra, per farti capire quanto sono ignorante alcuni italiani, Uno mi è venuto a chiedere come si usa il bancomat. Io l'ho spiegato, dopo mi ha detto grazie fratello. Ma se ero nel tuo paese e io venivo a chiedere a te come si usa il bancomat, tu dopo andavi a casa a raccontare alla tua famiglia questi cazzi di neri vivono come gli animali in Africa. Non manco sa neanche usare il bancomat. E la verità è questa, e la verità fa male. Vabbè ragazzi, a conclusione di questa pagina di mostri, caro David, ti faccio sentire Vittorio, che non è un mostro per niente, il quale se la piglia col signor Zorzi, quello che abbiamo sentito prima, no? Lo sai perché? Per i jeans strappati. Perché va in giro con i jeans strappati. Professore, vai all'attacco, vai. Ora uno pensa al cappotto e gira con i pantaloni tagliati all'altezza delle ginocchia. Per fare che cosa? Per dire che cosa? I poveracci mendicanti per terra che non hanno pantaloni hanno diritto ad avere i buchi. Uno che ha quattro soldi i buchi non li mostra in quel modo, per fare il bulletto che poi è più femmina che maschio. Questo ragazzo, Tommaso, 21 anni, laureato a Londra, è un modello di riferimento, perché lo è di fatto diventato. Di che cosa, secondo lei? Beh, lo è diventato per un popolo di coglioni come lui, la cui figura si rappresenta dai pantaloni che porta. D'altra parte non è che mi indigno per il moralismo, sono pronto a fare l'immorale, ma di fronte a principi che rappresentino un pensiero, non i pantaloni bucati. Una cosa ridicola, patetica, senza senso. E tu l'hai mostrata, non so per quale mezzo, potremmo ancora stare un'ora a vedere questo imbecille. Senti sotto Gerardo Grego che faceva. C'ha ragione, che deve dire però? Così all'improvviso lo sbrocco di Sgarbi li faceva. Che devi fare? Che devi fare? No ragazzi, ma io sto nel traffico, accendo la zanzara per distrarmi un po', e che cazzo sento? Il traffico. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, caro David, Salvini fa polemica nel giorno della neve, del terremoto, eccetera, eccetera, no? Nel giorno della neve, in realtà nevica da qualche giorno. Nevica da qualche giorno perché è inverno e quindi purtroppo nevica. Questo però è... si è aggiunto pure il terremoto. Ecco, esatto. Salvini cosa fa? Cosa sì. fa? Dice. Salvini ultimamente non ne fa giusta una, ma andiamo avanti. Vabbè, per te non ne fa giuste. No, no, non per dice me mai una è cosa una giusta. Constata. No, dice, ogni tanto può dire buongiorno, buonasera, come sta? Dice si aiutano i migranti. Dice. Appunto, hai capito? Gli italiani al gelo. Ma dai. E ma... i migranti in hotel. Ma che, ma... gli italiani al gelo, ma... e i migranti in hotel. Ma tu capisci, tu concordi con questa roba? No, spero. Beh, no, capisci no. anche tu che è una puttanata mega galattica. Italiani al gelo, migranti in hotel. I cittadini di Teramo, i cittadini senza luce da tre giorni, con un metro e mezzo di neve. Ho risposto anche a qualcuno di Pescara, visto che dice anche il fiume esondato. Non è possibile che da tre giorni ci siano migliaia di persone isolate. Adesso che qualcuno si occupi dei diritti dei migranti dalla mattina alla sera e si dimentichi degli italiani che sotto la neve, mi sembra veramente incredibile. Cioè lui dice, siccome alcuni paesi sono bloccati, sono dimenticati, il governo o chi per lui si dimentica di quelli bloccati sotto la neve e si occupa dei migranti. Caro Parenzo, di qualcosa, ti prego, di qualcosa, di qualcosa. No, l'unica cosa da dire è fermatelo. Fermatelo perché ormai la sua dignità non gli serve da argine rispetto alla tragedia del terremoto. E prende per il culo anche i terremotati, peraltro. La cosa perché? Grave è questa. Sì, no, la cosa grave è questa. Lascia stare per un momento i migranti. Vabbè, piglia per il culo i terremotati, che oltre ad avere subito il trauma, la tragedia di aver perso magari la casa, sì? Alimenta in loro, che non hanno alcun odio verso i migranti, perché io sono stato nei luoghi del terremoto, come sai, mesi fa. e nessuno di questi ha detto a noi non ci danno niente gli immigrati in albergo, quindi è lui che piglia per il culo i terremotati, questa gente qua che già ha subito questo e si deve pure sentire le stronzate di Salvini che lucra su una tragedia come questa. Guarda, è una vergogna. 19:50, finiamo qua. Ma perché? No, perché mi fai arrabbiare. Pasquale da Napoli, vai. No, Pasquale. Non c'è Pasquale, non voglio parlare con Pasquale. Io sì, io voglio parlare con Pasquale. Adesso, tu non vuoi parlare con Pasquale, io voglio parlare con Pasquale. Io non dirò più che si chiude la trasmissione, ma da oggi io scelgo con chi parlare. Se a un certo punto c'è Renato da Roma, Minchia da Lecce, non lo so. A proposito. Io scelgo da oggi con chi parlare. A proposito. Con Pasquale da Napoli, non so cosa vuole dire, ma io non voglio parlare. Non vuoi parlare, va. Ho deciso. Io invece sì, Pasquale, vai. E mi pagate lo stesso. Ora per due minuti sto zitto e mi pagate lo stesso. È una forma di protesta non violenta. Pasquale, e mi pagate. Sto zitto, non parlo, non parlo, però mi pagate. Io ora non parlo fino alla fine di questo blocco, io non parlo, però mi pagate lo stesso. Ascolti, mi dia ragione. No, io adesso sto zitto, lei parla, a me non interessa di parlare con lei, però mi pagate. Invece io vorrei dimostrare a Cruciani, nonostante dica di non essere fazioso nei confronti dei napoletani, vuole dimostrare quanto lo sia. Posso? Ma vai, allora, di quello che vuoi. Ieri nella telefonata con quella persona che faceva uso di eroina, interrompi la conversazione per dire: fermi tutti, c'è una notizia che viene da Napoli, bambini che spacciano, non poteva non venire da Napoli. Bambini piccoli di 8 anni. Sono storie che vengono da Napoli, in particolare vengono da Napoli. Se mi segui te lo spiego, perché c'è una sfumatura che forse non hai colto neanche tu. Allora interrompi la conversazione, la persona ti dice anche io da bambino spacciavo. Ormai tutti conosciamo il tuo modo incalzante di fare le interviste. Vabbè, quando una persona ti dà un elemento, tu e dove spacciavi? E come spacciavi? E quando guadagnavi? Ti sei sottratto a tutte queste domande e sai che cosa hai detto? Riascolta la registrazione. No, caro mio, adesso non mi dare questo carico da 90. La sfumatura, sai qual è? E che di adesso mi stai smerdando in diretta? Ho appena detto che sono solo a Napoli. Posso raccontare anche altri due episodi solo a Napoli, in particolare a Napoli. Posso raccontare anche altri due. Ma tu sei un attento, questa credine specie che tu hai nei confronti di Napoli. Non ho nessuna credine, nessuno. Allora, con l'ultimo episodio, poi civilmente. Allora, ti ricordi l'episodio di quando quel ragazzo fu preso con soffio nel mano a Pianura? Anche in quell'occasione non poteva non venire da Napoli un episodio del genere. La settimana dopo c'è stato lo stesso episodio a Torino, riportato dai giornali, tu non l'hai commentato. In una palestra un ragazzo che faceva gli squat, gli hanno messo il manubrio verticale, ha avuto delle lesioni all'ano e tu non ne hai parlato. Vuoi il terzo episodio sugli invalidi civili? Lugano, 15 persone che sono state esperte. Tu sei andato a Santa Lucia, la notizia del giorno era che a Lugano i frontieristi passavano la frontiera. La conclusione è questa. Pasquale, è un posto di grande, ma noi non ce ne fotte proprio, però si è più guardato perché Napoli è un posto di grande legalità. Non so, devo dire se, che è per un fatto sportivo, no, ma è un posto Napoli, ma è un posto di grande. Tu non puoi vedere i napoletani, a noi non ce ne fotte proprio, vabbè. Dico, non ti vorrei. Bene. Però se sei un poco più educato, perché io ti ascolto da quando vai avanti. Ciao. Renato da Roma, vai, parla pure. Che me ne frega. Vai. Ragazzi, vorrei commentare, buonasera, l'intervento del grande Mughini l'altro giorno, dicendo, parlando di Napoli come città senza identità. Dal città in cui c'è solo il calcio, ha detto, purtroppo. Beh, ha aggiunto. Quindi tradotto in termini italiani, insomma, vuol dire che questa è una città senza identità. In realtà, tu lo contesti questa cosa benissimo, di non è vero, eccetera, giusto? No, un attimo, non è così semplice. Non è così semplice. Il fatto è che Mughini, come da finto intellettuale, no? Quale è tipico del finto intellettuale, è quello di non avere argomentazione, insomma, lui deficia di argomentazione, quindi è un deficiente, e quindi offende. Anche perché come si fa a sostenere ma perché siete Napoli, così? Perché una città di 3.000 anni di storia e senza identità? Ma perché siete così? Scusami, perché scattate sulla sedia? Vi imbestialite così tanto quando uno fa una piccola critica? Siete di una permalosità spaventosa. Cioè avete preso questo povero Mughini, gli avete detto, non tu, ma magari, ma l'hai detto, l'hai appena detto che è un deficiente. Sì, cioè, perché deficiente di argomenti, attenzione, perché qui si parla di... Non fare troppo sofisticato, dai. Se no dicevo è un coglione, invece ho detto deficiente, perché deficiente di argomenti, è il tipico atteggiamento di intellettuale da bar. Ma come si fa, no? A dire che ha detto che in questo momento ha detto, non è che non ha detto che non ha storia, ha detto che in questo momento in nessun'altra città è un'opinione, non rompete i coglioni, siete e mi dispiace, siete di una permalosità, di una permalosità, ci sono minacce di morte, minacce di morte su web nei confronti di Mughini, lo state massacrando, gli state dicendo di tutti i colori, ma siete impazziti, ma siete matti, il caso Mughini, ma quale caso Mughini, ma che dite, dai, su, ma scusami, perdonami. Dai, su, e dai. Ma che offesa, ma sei tu che ti senti offeso perché sei malato. Se ti sei sentito offeso, sei malato in testa. Se ti sei sentito offeso, sei malato. Sei malato. No, sei malato. Se ti sei sentito offeso da questa cosa di Mughini, sei bacato in testa. Hai le pigne in testa. Non conosco, ma tu di che città sei? Io sono di nessuna città, sono apolide. Chiaro? Apolide. Non me ne frega nulla. Non appartengo a nessuna città, non me ne può fregare di meno. Chiaro, siete voi che siete malati. Io sono di Napoli e non posso dire, non possono dire niente su Napoli. Tu non hai identità. Sì, non ho identità. Sì, è vero, non ho identità e me ne vanto. E me ne vanto, chiaro? Me ne vanto. Tu invece basta, fa cagare. A te basta che ti dicono una roba, basta che ti dicono una cosa su Napoli. Oddio, questo è un deficiente, un cretino, un pezzo di merda. Come se mi conoscessi. A me hai in testa tu, se ti sei offeso per la cosa che aspetta un attimo. Se ti sei come offeso, se ti sei offeso per la cosa che ha detto Mughini, stai zitto un attimo. Se ti sei offeso per la cosa che ha detto Mughini, sei pazzo. Questo è il punto. Se ti sei offeso, sei malato. Chiaro? Senti, a me, Aziz, la roba che mi hai dato ieri mi ha dato una botta allucinante. La prossima volta dammi roba più leggera, che non la reggo. Ah, è la zanzara. Vabbè, è uguale, dai. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ore 19, chiamo mia moglie e le dico: sono riuscito a uscire prima dal lavoro, ma se vengo a casa adesso scopriamo. Mi risponde: no, ho il ciclo, ma se vuoi ci facciamo le coccole. Ma vaffanculo, va, me ne torno alle 9 dopo la zanzara. Allora, caro Parenzo, mi trovo qui a difendere, devo dire la verità, mi trovo qui a difendere, vi sembrerà strano, non sono d'accordo con una cosa che dice la professoressa De Mari, la ormai famosa, l'abbiamo resa famosa noi, Parenzo, l'ormai famosa professoressa Silvana De Mari, credo si chiami così, no? Per me è un obbrobrio proprio, un obbrobrio, uno allora, sconcio, uno la sconcio. Dottoressa, chirurga, eccetera, eccetera, Silvana De Mari... ha detto alcune cose qui in questa trasmissione, le ha dette tranquillamente, le ha dette senza nessun problema, in grande libertà. Le ricapitolo ve lo, molto velocemente, una specie di guida. L'omosessualità non è normale, uno squilibrio, un dramma che deve essere guarito con la castità, secondo lei. Ho visto le spaventose condizioni in cui è ridotto l'ano, costretto a subire la penetrazione. Essere gay è condizione di violenza e follia. Il sesso tra gay è lurido. La pornografia dà dipendenza, modifica i neuroni del cervello, un popolo di onanisti è un popolo manovrabile. Il sesso anale è collegato al satanismo, vedi Angelina Jolie. Il sesso anale provoca cancro, malattia, incontinenza fecale, perché gli spermatozoi si perdono nelle feci. L'omosessualità non esiste, tra gay c'è solo erotismo. Se volete diventare padri ma il corpo di una donna non vi affascina, non siete in grado di diventare padri. L'utero in affitto è un crimine. Se volete diventare madre ma non siete in grado di amare il corpo di un uomo, lasciate perdere. I gay sono persone asessuate. Aggiungo, caro Parenzo, aggiungo che cosa? Aggiungo alcune frasi pescate qua e là dai nostri meravigliosi collaboratori dal team della Zanzara, semplicemente andando a pescare, andando a vedere il profilo della signora De Mari. Per esempio, San Paolo condanna la sodomia e anche io. E chi è questo qui? De Mari, sempre De Mari. No, San Paolo condanna. San Paolo, sì. Ho capito, ma San Paolo, San Paolo però, amico mio. San Paolo, sì. Un po' antico San Paolo, sì, San no? Paolo, senti. Ecco, senti. Vabbè. La mia regione, San Paolo, fa parte del canone, non ci sono dubbi, anche la Bibbia, ma anche la battuta, non ci sono dubbi sul fatto che condanna la sodomia. Io ho il diritto di condannare la sodomia ad alta voce, ovunque, e che nessuno osi condannarmi, nessuno osi discriminarmi, nessuno osi espellermi da un'ode, ma non ve lo sognate. Se il bambino non si sente né maschio né femmina, è malato. Il bambino nasce maschio o femmina. Se non riesce a essere maschio o femmina perché i suoi genitori sono stati talmente disastrosi che non gli è partito il neurone specchio per identificarsi con il genitore dello stesso sesso, non è un bambino diverso, è un bambino malato. Cioè, chi non si sente né maschio né femmina è malato ed è colpa anche dei genitori, dice. Poi descrive in questo modo molto crudo il sesso tra gay, senti. E ti dicono, guardi che anche il pissing vuol dire urinarsi addosso uno con l'altro, poi si buttano anche le feci. Ti dicono, ma anche gli etero lo fanno, cioè i normali, etero loro lo usano per normali. Sì, è vero, ma meno, perché quegli altri almeno hanno un pene e una vagina, a un certo punto, prima o poi, incontrano un tipo di roba dove non si fanno danni. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? E questo sarebbe un medico. Aspetta. Contro i trans che si operano, credo? Sì, sentiamo. Se creo il pene, ma come crea il pene? O c'è o non c'è? Fai una tasca di pelle schifosa dentro cui c'è un tubicino di pelle che dovrebbe sostituire l'ure, il tubicino che porta la pipì, ma che non è fatto così, ci va la mucosa muscolare, non c'è niente, la pipì ristagna, ti partono i piloni fitti ascendenti, ti partono le malattie renali, le persone che hanno subito ste boiate moltiplicano per 10 il loro rischio di suicidio. Poi c'è anche il suicidio. L'altra frase cult della signora De Mari è che i gay hanno un tasso di suicidio molto più alto. Allora, esiste una petizione all'Ordine dei Medici. Pare che sia stata avviata addirittura una procedura ufficiale all'Ordine dei Medici, credo di Torino, del Piemonte, non lo so, per radiare la signora De Mari dall'Ordine dei Medici. Ottimo. Chiediamo la radiazione immediata della dottoressa De Mari dall'Ordine dei Medici di Torino per aver espresso in sede pubblica pareri obsoleti in merito ai rischi della sessualità omosessuale, alla definizione di gay bowel syndrome, per aver ridicolizzato, umiliato, deriso con la pietà pelosa di chi è in malafede, chi abbia rapporti omosessuali, eccetera, eccetera. Io sono contrarissimo a questa cosa. La stessa De Mari ha detto: io mi batto per il diritto all'omofobia. In un paese liberale, un uomo ha il diritto di infilare il suo pene nella cavità anorettale di un altro uomo, così ha detto, e io ho il diritto di provare fastidio all'idea. E io credo che abbia ragione. Cioè, esiste un diritto, io sono contrario a ogni parola che dice la De Mari, ma esiste un diritto all'omofobia. Cioè, tu non puoi essere cacciata dall'Ordine dei Medici perché esprimi le tue idee. Non esiste il diritto all'omofobia, non esiste il diritto a insultare. Ma non insulta nessuno. Sì. No. L'omofobia, la parola stessa, è la paura dell'omosessualità, è l'insulto all'omosessualità. Allora, non esiste un diritto a insultare un'altra persona che ha gusti sessuali diversi dai tuoi. Ma non ha insultata, la non mia insultata. Dottoressa. Ma poi, il diritto, ma poi perché, all'omofobia, una dottoressa non può insultare. Come non esiste il diritto al razzismo? Non esiste. Non è ma un diritto. È un diritto, assolutamente. Non esiste il diritto. Esiste un diritto. Ma non tu, devi allora, essere devi cacciato in un altro paese. Non devi essere cacciato. Tu devi essere in un altro paese. In Italia non esiste il diritto al razzismo. Io so. Ti risulta che esista il diritto al razzismo? Sì, assolutamente sì. Ma sì. No, è un reato il razzismo. Ma c'è il diritto, però non è che sei cacciato all'Ordine dei Medici. Ma c'è il diritto ad andare a fanculo. Quello è il tuo diritto, dai, di andartene a fare in culo. Ma non esiste, sì, è un diritto tuo che io auspico. Dai. Ma in realtà non esiste alcun diritto al razzismo. Dici una stupidaggine. C'è il diritto all'omofobia. Non diritto c'è nessun all'omofobia. Diritto ad essere omofobo, cioè ad avere sì. comportamenti contro ma gli omosessuali. C'è la legge. Ancora e appunto. Se tu sei istiga alla violenza confronto degli omosessuali ti mettono in galera. No, nel momento in cui tu attui una discriminazione, per fortuna se la dici nostra dei costituzione sono dei pezzi di merda, per me sei un cretino, ma hai il diritto di dirlo, chiaro? Questa medico, questa dottoressa, questa signora che va cacciata dall'ordine dei medici, signora, poi va cacciata, signora, va cacciata, va radiata, non cacciata tecnicamente, dall'ordine dei medici, quindi può continuare a fare le sue cose, a dire le sue cose in privato, ma può continuare a odiare gli omosessuali in ma privato, deve essere cacciata dall'ordine dei medici, ma deve essere allontanata, tecnicamente diremo radiata dall'ordine dei medici. Bene. Alessandro da Torino, vai. Beh, anzi Pino da Napoli prima, Pino da Napoli, vai. Pino. Pronto? Dimmi Pino, dimmi. Buonasera. Dimmi. Luciani. Sì, vai. Allora, io chiamavo per il discorso per chissà perché chiami all'accusa di permalosità che ci hai fatto. Ma non è un'accusa, è una realtà, ragazzi. Ogni cosa che si dice su Napoli la trasformate in una guerra termonucleare, no, dai, su. Allora ti spiego, scusami, a proposito di diritto di cui parlavate prima. Uno ha il diritto di ribellarsi, noi non ne possiamo più. Ma ribellarsi a cosa? Luciani, Giletti, Mughini. Sembra che gli invalidi stanno solo a Napoli, i furti li fanno solo a Napoli. Scusa, l'altro giorno ho letto una cosa, la maggior parte, il più grande centro, il più grande centro di... produzione di denari di soldi falsi è Napoli, ma amico no, mio. Ma lo sai pure tu che non è vero. Sei ma come un no, è vero. Ti piace dipingere questa cosa così pure a te? Va bene, d'accordo. Ci possiamo ribellare a questa cosa? Ma non che cosa? A che siamo cosa? Solamente rotti coglioni, non ce la facciamo. Ma che cosa? Ma vogliamo non siamo permalosi, siamo. Ma ribellarti romani, a che? Ribellarti a che? Come i torinesi. Allora, a MasterChef qualche settimana fa c'era uno dei concorrenti che era perito di assicurativo e lavorava per il tribunale di Ivrea. E allora? Questo povero Cristo ha detto che non ne poteva più rifare il suo lavoro perché erano tante le truffe assicurative del tribunale di Ivrea che lui subiva minacce. Ma chi ha detto che le truffe le fanno solamente a Napoli? Scusa, io ho no, detto questo. Però ogni volta ci sarà un motivo se io fermiamoci a quello che ha detto macchina, fermiamoci a quello che paghi tu. Avete aggredito Mughini, avete quello ma è un dato, è un dato di fatto, non l'ho aggredito perché non lo sento, è un dato di fatto. Mughini, a me mi entra da un'oretta, mi esce lo vedi, è un dato di fatto che le truffe assicurative a Napoli siano maggiori, su questo non c'è dubbio. Poverino, è un siciliano che ormai cosa? Neanche i siciliani, pure i siciliani hanno vergogna a sapere che è nato lì. Ma per fortuna se ne fotte di essere siciliano e se ne fotte di quello che dice lui. Tu invece no, Napoli, sei orgoglioso di essere napoletano. Tu sei orgoglioso invece, orgoglioso. E appunto, sì, vedi? Sì, per questo dunque quando ti toccano una cosa. Benissimo, ma per carità. Che Mughini, non me ne frega proprio. Ma ho capito benissimo, Alessandro Torino, vai Alessandro. Io mo, per me è una forma di malattia, no, è una forma di malattia. No, sono napoletano nelle viscere e me ne vanto. Dunque, se uno dice una cosa, scusa, ma però succedono alcune cosette a Napoli. No! La stessa cosa in altre città. No, non è vero, non è vero. Alessandro, vai. Però Gianni, io sono napoletano e sono venuto a Torino, no? Quindi parlo per cosa vera. Il napoletano è privo di dignità. Lui in che senso, scusa, se non esageriamo, che succede? No, è la dignità, è quella di far fronte ai propri difetti e far fronte ai propri doveri. Invece è pretenzioso, dice no, voi non mi dovete dire niente, no, io devo fare come voglio, però devo essere anche aiutato, però non devo tenere nessun dovere e devo tenere tantissimi diritti. Io abito un posto che si chiama anche vicino, che si chiama Mercenasco, questo sta a 10 km da Ivrea. Vabbè, che c'entra questo? No, c'entra che adesso ha citato questa cosa di Ivrea, che ci stanno le truffe, ma quelle ci sono dappertutto le truffe, vai anche a New York, ci stanno le truffe. Il napoletano deve capire che deve avere la dignità e deve dimostrare a se stesso quello che vale, non dire agli altri, ah voi mi avete detto male, allora io mi incazzo. Io sono stato sotto le vacanze di Natale a Barcellona. Questi come fanno a dimostrare che sono diversi dagli altri spagnoli? Sai questa storia che vogliono separarsi? Vabbè, no? Troppo lungo, vai, fermalo, no, fermalo. Troppo lungo, no, dai, troppo lungo, fermalo, fermo. Cruciani, comunque con quei capelli non ti puoi permettere di dare giudizi estetici sul logo della Juventus. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. ciao Parenzo, ciao Cruciani. Registro qui in questo momento dall'Abruzzo, da Atri. Non abbiamo né la luce, né l'acqua, neve a tutta, ma nonostante tutto ascoltiamo solo la Zanzara. Allora, caro Davide, io riprenderei. Sentiamo. Da Stefano dalla provincia di Roma, vai. Anzi, no, Giuseppe dalla provincia di Chieti, poi Stefano, Francesco da Milano e altri. Quanta gente! E altri. Vai, Giuseppe, Cruciani, vai. Cruciani. Oh, è tornato. Cruciani. Chi è questo? È tornato il coglione là. Allora, è iniziata la sagra del demente. Eccoci qua. A Cruciani, prego. La canna se l'è finita a fare nell'intervallo. Ma chi? Quale canna? La canna che si fa. Ha fatto allungare pure l'intervallo, no? La pubblicità. Ma quale canna? Qui nessuno fuma le canne, almeno in questo momento, nessuno sta fumando nulla. Sei tu che a te ti fuma la testa. A Cruciani, attenzione alle canne. Quello che c'ha a fianco, il maiale, quello, il cocainomene, è fregato completamente. Ce l'ha sempre con me questo? Sì, con te. Cosa ha detto? Non ho capito bene. La cocaina ti ha fregato. Ottimo, studio legale, per cortesia, due non dico cose, il nome, ma attivarsi, grazie, al minuto 19:36, diffamazione del corso. Ma non ti ha detto nulla. Cocainomene ha detto. Vabbè, ho capito, non è che è una diffamazione essere cocainomene. Tu sai che non è vero, quindi non è... È un complimento. E c'è pure insegnante italiana, serve, oltre che qual è la diffamazione. Maiale. Ma perché maiale? Qua, perché? Al minuto 19:36, seconda diffamazione. Maiale. Allora, maiale. Aspetta, che prendo il tempo. Che ha fatto? Qui, secondo me, siamo già sui 20.000 euro. Parlare della neve qui al freddo in Abruzzo. Ma perché alla dovrebbe villa che c'ho. Ma perché dovrebbe venire a sparare la neve in Abruzzo? Alla, 45 euro per 9 ore. Ma dallo a qualche... Il maiale. Fai lavorare qualche extracomunitario, qualche no, migrante. No, ma questo è un lavoro per il maiale, è adatto al maiale. Ma che perché? Perché? Qual è il motivo? Perché? Questo maiale qua, prima se ne va dall'Italia, è meglio. Ma con chi parla? Ma con te. Lui non, con... È, ah, no, con non è un italiano. Non è un italiano. Non è italiano. Io ho fatto il militare, quello là è un... Tu hai fatto militare, che c'è? È un denigratore dell'italiano. C'è della lingua italiana, lei dice. Ah, degli italiani, ok. Sì. Lei che è Cruciani, lei che ha fatto il CEPO, glielo dica al non si capisce perché bisogna faccia per laureato, non bisogna, perché no? Bisogna diffamare il CEPO in questo modo, tra l'altro, insultarlo così. Non lo so, ma va bene, quindi lei ha parlato il professore, dire... tra l'altro, ha parlato il professore universitario. Esatto. Umberto Eco sta parlando. Non lo sto parlando, Umberto Eco. Ma hai dato nel giro di 4 minuti, perché l'ho preso nota delle diffamazioni. Cocainomane ignorante, maiale. Nel giro di 4 minuti. Quattro minuti sono. Ma poi per quale motivo? Poi ci sarà un motivo per una cosa. Ma perché? Che ha detto stasera di strano? Spiegami, tradisce gli italiani, non è italiano, vattene dall'Italia. Che cosa? Perché? Quello che è italiano, quello là. E non è italiano, che cos'è? Quello è un anti-italiano. Se ne va dall'Italia, è meglio. Meglio è. Questo vabbè, devi andare via dall'Italia. Giuseppe, hai finito la tua prolusione, come si dice? Lectio magistralis. Un'altra cosa, no? Un'altra cosa, sì, aggiungiamo. Da solo, stasera è da solo, si vuole spiegare. Sì, è laureato. A me piacerebbe sapere che faccia c'ha allora, questo, comunque. Siccome lei di raccomandazione, no? Allora, per entrare lì al Sole 24 Ore... Ancora? Sta commettendo un altro reato, secondo te? Mi faccia finire. Secondo me sì. Figlio che è laureato allo IULM, no? Con il massimo dei voti. Ma chi? Mia figlia. Sì, ma chi se ne frega che ha lavorato allo IULM con il massimo dei voti? Ma ce ne fottiamo, tua figlia. Ma tua figlia se si presenta la piglia a calci nel culo, la piglio. Cioè, no, è lei che prende a calci nel culo. Ma la prendo a chi sei? La figlia di Giuseppe da Chieti. Via! Vai a fare in culo, via! Calci nel sedere e via. Marco da Pisa, anzi, Stefano dalla provincia di Roma. Cala, Cruciani. Cala. Stefano, provincia di Roma, dai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Senti, no, a me mi dà fastidio che te tutte le volte dici sto bello figo, di qua. Non gli diamo troppo spazio a sto imbecille, no? Se viene a Roma che fa? Gli spezzo le gambe. Ecco, molto no, buono. Dì a Parenzo che segnasse il numero, così te non c'è pure me. Cosa fai? No, ma io gli strappo la testa, tanto so dove canta, capito? ex magazzini, sì, o sì, una roba del genere. Sì, so che qualcuno ha messo... 4 febbraio, ore 22. Sì, 4 febbraio, ore 22. Ore cioè... 22... per l'apparenza, tanto lui segna tutto, capito? Quando cioè cosa fai tu? Tu se lo vai là... No, io gli strappo la testa, non c'entra di tante cose, io gli strappo la testa, perché è proprio una testa di cazzo. Cioè, gli spezzi, sì, gli vuoi spezzare le gambe? Sì, sì, perché qual è il problema? Ma no, ma qual è il problema? È anche un piccolo reato spezzare le gambe a qualcuno, ti vorrei segnalare. Sì, ti vorrei segnalare. Quello che sta facendo lui, insultando gli italiani, questo e quell'altro, non è reato. Ecco, ma tu conosci un... piccolo reato, ok. Tanto non ha capito che non lo deve fare, no, Giuseppe? Cioè, non l'ha capito. Stefano, che io non ho capito. Tu conosci... che ti ha dato una mano, che sei venuto qua, ti hanno dato la mano, ti hanno fatto... che fai, te... ti sputi sopra la gente, ti strappo la testa, almeno così hai capito. Sì, ma come si fa a strappare la testa a qualcuno? Non tra quelle mani, pensi ci vuole... cioè è una metafora, diciamo, è una cosa un sì, po'... Sì, sì, no, no, ti dico, tanto questa trasmissione, non so se lui la sente, che tanto non è neanche all'altezza di fare una cosa del genere, perché è ignorante, è bello figo, tanto qualcuno sicuramente... se lui viene a Roma io gli strappo la testa. Letteralmente proprio, cioè proprio materialmente. Sì, sì, proprio, manualmente. Cioè tu stai allora, dicendo, per esempio, 19:40 c'è un annuncio di commissione di reo. Nessuno lo deve far cantare, nessuno lo deve far sentire questo povero imbecille. Sì. È ora di farla finita, di far cantare tutti i cani e porci. È arrivato questo, che abbiamo aiutato, che fa, insulta questo, quell'altro, come se fosse niente. Anzi, la gente ci va anche a vederlo. Anzi, quello che mi dà più fastidio è la gente che va a vederlo. Non si rende conto che è idiota. Però cioè, scusami, capito? Un attimo, tu Stefano. Stefano. Fa un swang, che cavolo fa sto uomo? No, boh, cioè, no, è un povero idiota, non parla nemmeno l'italiano. Se sì, poi interviene pure quell'altro imbecille del suo fratello, che mamma mia. Cioè, Don Cappuccino, il mitico Don Cappuccino. Don Cappuccino, ecco. Però io voglio capire una cosa. Lui il cappuccino al suo fratello gli tappavo. Cioè, no, che no, ecco, fai una cosa, segna di sta cosa. Se lui il 4 febbraio viene a Roma, io gli strappo la testa. Sì, ma abbiamo capito. Si capisce qua. Però Stefano, Stefano, tranquilli. Comunichiamo questa cosa agli organi preposti. Però Stefano, scusami un attimo. Sì. C'è una questione molto semplice. Dovresti rivolgerti ai gestori del locale che ospiterà. Già fatto, già gliel'ho scritto, gliel'ho detto. Non sarebbe il caso di non farlo. E che hanno detto? Che hanno detto? Hanno detto no, noi è nel programma. Ma come nel programma? Ma che cazzo di programma fai nel tuo locale? E loro? Questo ha detto, solo questo ha detto, niente altro. Basta. E tu che fai? Vai là di sopra, vai là, se fanno il concerto che ma vai? Ma pensi che c'ho, cioè, uno pensi che io, uno ha il problema di andare lì a piare la pizza, sta tagliatetta. Cioè, ma fammi capire. Ma non ho capito. Cioè, allora, questa persona... Ci saranno dei poliziotti lì davanti, pure, eh? Pare, insulta tutti, fa come ti pare. Ma no, fammi... Cioè... Ci saranno dei poliziotti lì quando farai il concerto, eh? Sì, sì, no, ma infatti, sai, capito? Pensi davvero che io vado lì, vengo lì, faccio casino e... Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Sono arrivato dove devo arrivare, non ti preoccupare, perché lui a Roma, mi questo è importante, lui a Roma non ci deve venire. Bene, 19:42, segnalazione di un altro reato in corso, 19:42, reato, grazie. Ho detto che Parenzo faceva... Sì, sì, segno, oggi segno tutto, oggi segno tutto, c'è un foglio bianco, guarda. Marco da Pisa, che c'è? Foglio bianco, c'ho foglio bianco, carte, fascicoli, certo, Marco nomi, cognomi, tutto abbiamo qui. Sì, a procura, tutto abbiamo qui. Carte. Dimmi Marco, dimmi. Sì. Io ho telefonato semplicemente perché ho sentito che semplicemente perché lei da solo, perché lei è una persona sola. Ah, bravo, no, bravo. Che fa il paio con quello che stava dicendo chi mi ha preceduto, cioè c'è anche bravo. Il diritto a, come dire, a picchiare le persone. Non è la stessa cosa. No, ha ragione. Fallo parlare, ha ragione. Non è la stessa cosa, Marco. Ma come non è la Ma l'omofobia sai che cos'è? Ti risulta che allora, ci siano io ho detto che non che c'è... vengono aggredite? Ma quello è un altro discorso. Ma quello ci sono le leggi che puniscono. Mica ho detto... Tu hai fatto parlare per un periodo molto lungo questa signora che è un medico e che dovrebbe sapere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità da tempo ha certificato che l'omosessualità non è una malattia. Per cui se un medico sostiene... A parte che lei non ha detto che è una malattia, lei ha detto... Certo, che no, cosa ha detto che sono persone che soffrono, che vivono un dramma. Delle sì, cose gravissime. Amico ma mio... quale dramma? No, però dramma scusa, è, una, è un medico... medico come lei, che è un integralista cattolica. Però Marco, scusami, io ho detto semplicemente una cosa. Ho detto: non condivido nessuna parola della dottoressa De Mari. Però c'è un diritto all'omofobia. Assolutamente sì. Nessun diritto. Ma hai il diritto all'odio, nessun diritto al razzismo. Ma non hai incitato all'odio, ragazzi, non dite stronzate, dai. Non esiste il diritto all'omofobia. Ma non esiste, ragazzi, io penso sogno una società dove esiste anche il Ku Klux Klan. Chiaro? No, questa è l'America, non mi interessa. L'Europa, a me piace questo tipo di società dove anche il Ku Klux Klan. La signora De Mari, la dottoressa De Mari, qualcuno chiede alla redazione dell'Ordine dei Medici, è un errore gravissimo. Insomma, figlio mio, a quando ci sono certe leggi nel nostro paese vanno rispettate. L'omofobia. Ma il... no, a parte che non esiste la legge sull'omofobia. No, scusami. Marco, tu sei gay? Incitare all'odio. L'odio è un reato. Fine. Ma non ha incitato all'odio. Dov'è l'odio? Non ha incitato incitare alla discriminazione. La è un reato. La radiazione viene chiesta perché un medico non può essere un integralista cattolico. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma sei pazzo? No, perché... Un medico può essere quello che vuole, basta che faccia bene il suo mestiere. Ma non dite stronzate, ragazzi. Ma infatti non credo che faccia bene il suo mestiere. Beh, ma quello lascialo decidere i suoi pazienti, mica lo decidi tu. Ma l'omosessualità non è una malattia. Mo adesso i leghisti arriveremo al fatto che i leghisti non possono fare i medici perché pensano che gli immigrati debbano essere cacciati. Ma no, ragazzi, ma che siete matti? Ma chi ha detto una cosa simile? Ma lei, se dice che l'omosessualità è una malattia e non può fare il medico, uno che dice che gli omosessuali sono malati non può fare il medico, dice una puttanata, ma secondo te non può fare il medico? Ma vada in una struttura di integralisti cattolici. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Non c'è nulla di scientifico in quello che dice, sono idee. Ma non tue. È che lei fa il chirurgo, l'endoscopista e lo psicoterapeuta. La gente sa quello che pensa. Lo psicoterapeuta. Ma sarebbe tutto da verificare quello che dice. È un altro discorso. Non è che possiamo prendere per oro colato quello che dice. Ciao. Allora, abbiamo con noi... un personaggio al centro dell'attenzione, soprattutto a Napoli, dove viene massacrato, insultato, sbeffeggiato sul web. Probabilmente lui se ne fotte del web, ma ci sono accuse e soprattutto offese anche molto molto pesanti. Probabilmente non le ha lette, Giampiero Mughini, buonasera, caro Giampiero. Eccoci, cari amici. Benvenuto, allora, tu molto di queste bene. Offese non ne hai contezza, come ma dire? Ma non ne... Se uno dovesse, quando va per strada, stare attento allo sterco che c'è sui marciapiedi, non potrebbe camminare. Però guarda, Giampiero, in tutte le radio napoletane fanno intervenire persone che dicono che sei un deficiente, un cretino, uno che non capisce nulla, poveracci, eccetera. Mettimene uno davanti, vediamo quanto regge al confronto intellettuale. No, ma su questo non ho il minimo dubbio. E allora, perché devi dare, diciamo, della popolarità degli imbecilli? Sì, gli certo. imbecilli devono stare nel rango, nella gabbia degli imbecilli. Beh, ho capito, però che è molto Giampiero, affollata. Ti voglio segnalare, tu te ne fotterai perché non vai non sul me ne può fregare di meno sul cosiddetto web e non ci vai, d'accordo. Ma non me ne può fregare di meno. Però ti posso segnalare che ti danno veramente, ti dicono qualsiasi cosa, pezzo e di cosa merda, infame, ladro, rubentino, infame, ludio, devi morire. Ma cosa vuoi che me ne freghi? Vabbè, d'accordo, allora te ne freghi. Ma cosa vuoi che me ne freghi? Sì, ma tutto nasce dal fatto, ho capito, tutto nasce dal fatto che tu hai detto una cosa, io l'ho commentata ampiamente, ti ho anche difeso, ma tu non hai bisogno di essere difeso da me, naturalmente. No, non ho bisogno. Non hai bisogno. No, ma questo lo sapevo, per carità, l'ho fatto di mia sponte, come dire, no? Di mia sponte. Ho detto che tu hai sostenuto una tesi, che naturalmente si può anche discutere. Cioè il fatto che Napoli ha un'identità in questo momento, hai detto, solamente legata al calcio. Solamente. No, insomma, ho detto che loro stessi si danno un'identità soprattutto legata al calcio, loro che stanno in una città che storicamente è stata una delle capitali europee al tempo dei Borboni, sì, ma sì. Poi quanto a talento napoletano nella storia del nostro teatro, della nostra musica, della nostra letteratura, ce ne sono caterve, e poi ospitano al San Carlo un giocatore argentino straordinario, straordinario. Allora a questo punto sei tu che cerchi l'identità soprattutto sul campo verde che è un campo bellissimo dove... No, tu hai detto in realtà anche un'altra cosa, in maniera molto più sintetica di come lo stai dicendo adesso. Hai detto in questo momento Napoli purtroppo ha un'identità soprattutto riguardo al calcio. Molti hanno detto Napoli è... Ma se la cercano loro, perché poi naturalmente non è che io dimentico gli scrittori, i cantanti, i teatranti che loro hanno in questo momento. Tony Servillo, se non sbaglio, è napoletano. No, ma certo, dunque... Ma sarebbe lui a irradiare una luce De Giovanni napoletano, fra i cantanti non so quanti ce ne sono interessanti, però loro, insomma, in effetti la loro passione popolare, il loro cuore, eccetera, batte all'unisono del piede sinistro di Maradona. Beh, contenti loro, ci mancherebbe altro. Dicono che da hai qui però agli insulti di questi poveri dementi. Ma questi poveri dementi non conoscono neppure l'italiano. Ma guarda che in realtà non sono solamente utenti del web, sono anche conduttori della radio, gente che dice che sei un deficiente, che non conosci Napoli, che non conosci la cultura di Napoli. È pieno. Cioè hanno preso quella tua frase come un esempio dell'odio che avresti nei confronti di Napoli. Io? Ma hai qualcosa di cui scusarti? Ma come si fa, scusa? Napoli è la patria di De Filippo, a Napoli c'è la biblioteca universitaria, la biblioteca di Benedetto Croce, a Napoli Pino Daniele, Bennato, ma di che cosa stiamo parlando? Però tu dici si sono ridotti a Maradona, ci sono passati... No, io ho detto, insomma, hanno festeggiato al San Carlo Maradona... E poi il modo in cui lo festeggiano. Loro non festeggiano il piede sinistro di Dio, come è assolutamente lecito e direi quasi... Ma ogni parola, dici? Ogni loro, è San Gennaro, e San Gennaro moltiplicato per due. Se lui dice qualsiasi stupidaggine e ne dice un'immensità, loro si commuovono, vorrebbero che diventasse, non so, il santo patrono ufficiale, il presidente del Senato, il premio Nobel per la letteratura, qualcosa del genere. Dunque tu dici oggi la cultura di Napoli si è ridotta a Maradona. No, io non ho detto questo, Dio santo, ho detto che la loro autoidentità è molto centrata su questo, tant'è vero che lì viene accolto come un dio in terra, sì, al Teatro San Carlo. Un cazzone, tu dici, un cazzone. In un luogo, insomma, più pertinente forse, e ho visto anche che un ottimo scrittore, un eccellente scrittore, Maurizio De Giovanni, stava lì impietrito, come nel suo diritto, ben inteso. Sì, a me sembra un po' eccessivo, anche perché questo piede sinistro di Dio, poi, quando è stato in difficoltà, loro stessi lo hanno cacciato. Non è che quando è stato in difficoltà loro lo hanno difeso come i socialisti hanno difeso Craxi, no. Cioè tu stai dicendo sostanzialmente che al di là del calcio Maradona è uno, per quelle per le dichiarazioni che fa, per quello che ha detto, è un emerito cazzone, diciamocela tutta. Io non uso questo termine, ma lo penso. È anche un evasore fiscale, tra le altre lui, cose. Lui Parenzo dice anche che è un evasore fiscale. Beh, peraltro, tra le altre cose. Ma l'evasione fiscale lui la contesta, eccetera. Comunque c'è anche quell'addebito lì. Adesso questo addebito non è ancora definitivo, ma c'è anche quell'addebito lì, punto. Ed è un addebito per una cifra molto importante, poi staremo a vedere. Però comunque io sono d'accordo con Giampiero su una cosa, perché entrambi, io e Giampiero, non sopportiamo l'idolatria di nessuno. Beh, di nessuno, naturalmente. Per cui l'idolatria significa non solamente amare un calciatore, ma in questo caso significa amare anche tutto quello che dice, cioè viene applaudito e osannato per qualsiasi parola dica. Certo, in realtà ne ha dette di tutti i colori. Ragazzi, ma fino... di tutti i colori, cioè, ma di tutti i colori. Fino a qualche giorno fa diceva che De Laurentiis è pronto a vendere pure la madre, cioè poi fa pace con De Laurentiis. Prima ne ha dette peste e corna di Sarri, dicendo che non era adatto a Napoli, poi invece fa pace con Sarri. Ma gli insulti a Icardi, Icardi è traditore. Stata una storia personale sulla quale nessuno può mettere becco. Ci sono tre persone, come succede nella vita, e le cose vanno in un certo modo, ma ovunque le spara in modo evidente. Su Higuaín ha detto dei scementi. Sì, che sta solo segnando. Higuaín aveva dato a Napoli tutto quello che poteva dare, 36 gol, e poi ha lasciato il testamento 90 milioni. Però dice che è una... tu stai dicendo che umanamente è un poveraccio, cioè, questa è la sostanza. non insistere, perché tu vuoi assolutamente che io dica qualcosa di estremamente offensivo. Beh, vabbè, senti... Io non voglio dire. Scusa. Lo voglio pensare, ma non dico. Ma che vuol dire lo vuoi pensare? Tu pensi che umanamente non ci sia da ascoltare Maradona nemmeno per una cosa che dice? Bisogna solo ricordarsi di come giocava. Questo è il punto. Cioè, quando lo senti parlare... Insomma, è un uomo che è in vetrina da tanto tempo. Lui ha vinto, non da solo, ha vinto in una magnifica squadra il Mundial del 78. No, 86, Con il Napoli ha vinto molto, ma non è che c'era solo lui in quel Napoli, si dimenticano chi c'era, c'era Ciro Ferrara, c'era Giordano, c'era Carreca, Dio santo. Ma tu adesso andresti a Napoli tranquillamente oppure avresti un po' di paura per quello che ti stanno dicendo? Perché guarda che Io ho paura. Di che cosa? E che ne so, sai? Sì. Cioè, ma cosa dici? Razzista bastardo. Com'è che hanno detto? Razzista bastardo. Un coglione, sono cose che tu lo capisci, non è che non stiano in ma piedi, ma nomi e cognomi, i ragli di un asino, insomma, io lo so perfettamente. Non è che i ragli di un asino possano destare comunque, preoccupazione. Non devi chiedere scusa a nessuno, per quello che hai detto. Io devo chiedere scusa, no? Non devi chiedere la domanda, non devi chiedere scusa. Io devo chiedere scusa, no. Giulio, uno mi definisce razzista bastardo, io gli devo chiedere scusa, no? Ma dai, sono gli escrementi che uno camminando incontra per strada. Sì. Fermi tutti che torniamo con Giampiero Mughini, fermi. Mi sono trasferito a vivere in Messico, ma ascolto sempre la Zanzara. Ragazzi, siete il top. Siete il top. La Zanzara. Tirocinio da un medico di base, stessi pantaloni da 2 settimane, stesso pile da 1 settimana, tutto finito, tutto degradato. Allora, con noi Giampiero Mughini, al di là di Napoli, caro Giampiero, c'è una discussione, anche qui soprattutto sul web, ma non solo, sul nuovo logo della Juventus. Io ho detto la mia in maniera tranchant ieri. Cioè, trovo, sarò antico, sarò vecchio, sarò tradizionalista, quello che ti pare. Cioè, ma perché cambiarlo soprattutto? A me pare, non dico una schifezza perché ci vuole tempo anche per giudicare, cioè, a me pare agghiacciante, non lo so, cioè, mi pare una cosa... No, ma perché cambiarlo? Non lo so, che dici Giampiero, tu che sei più... Speravo che tu non mi facessi questa domanda. Allora, la Juve ha sentito la necessità di avere un logo più adatto ai tempi moderni, che sono tempi in cui il bilancio di una società dipende notevolmente dalla capacità di vendere, di prendere quattrini dagli strumenti su cui c'è un suo marchio e una sua, un suo stemma, capisci? Dunque... Oggi le grandi società, quando non mi ricordo chi comprò Beckham, Beckham è una grande squadra, non mi ricordo neppure se fosse Real Madrid, Barcellona. Insomma, loro si erano rifatti i soldi con cui avevano comprato Beckham con le magliette. Vabbè, perché che vuoi dire? le ragazzette cinesi compravano la maglietta di Beckham per motivi che sono evidenti. Vabbè, ma al di là di questo, il motivo evidente è quello che a te piace o non piace, o te fa schifo, diciamola tutta. Io guarda, confesso, lo trovo un po' algido, questo mi pare talmente evidente, ma poi ti ci devi abituare e lo devi vedere lì dove deve stare, cioè non sul cartellone lì, la festa che loro sulla hanno maglietta, fatto. Dici. Lo devi vedere lì dove deve stare, sulle magliette, sui cappelli, che ne so. Io cambiare un brand che ormai è consolidato? Ma non hanno cambiato il brand, dai! Il logo, come hanno cambiato la sigla grafica del brand. Ho capito, ma è come cambiare il nome, come cambiare la sigla grafica di quello no, quello di qualunque della Nutella, faccio per dire. E mi arresto. Però scusami, no, c'è no, un'altra ma è come cosa. Come se tu cambiassi la Nutella, la grafica della sì, Nutella. Sì, quella è vero, la grafica della Nutella. No, ma scusa, è così, ragazzi. La Nutella, tu sai, adesso dico la Nutella. È un brand dire... universale. Tu dici cambi la grafica, però puoi vendere lo stesso. Ma io non sono affatto d'accordo con voi. La Nutella è quella cosa che... lì, la Juve, la Juve. La Juve può cambiare benissimo. È meglio la Nutella, vero che nella sua storia l'ho già cambiato tre volte. Però scusami, l'amico Telese, nel suo anti-juventinismo viscerale, sai come il mio? Telese, scusa, sì. Scusa, non l'ho sentito. Telese è ovvio, ma no, aspetta, quella è una malattia, sai. Nel suo anti-juventinismo viscerale, che cosa ha fatto? Ha detto un logo è essenza, sintesi, e ha messo un omino che sa successo del logo della Juventus. Scusi, scritto Juventus sopra. Ma io cosa vuoi? Che voglia impedire a Luca di prendersi delle grandi soddisfazioni da queste cose? Lui è felice quando fa queste cose. È un ragazzo come altri in cui c'è un Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè è una persona che se parla di politica con me, con te, anche di cose d'arte, sì. L'altra volta mi ha consigliato un bellissimo film, è una persona. Poi, appena entra in campo la Juventus, eccetera, si stravolge. E Stevenson ha scritto un romanzo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Senti, conosci una che si chiama Nina Morić? Sì, la conosco molto, molto, molto bene. Molto bene, allora ha scritto... Molto bene, sì, molto bene. Molto bene, senza Piasa e Mandzukic la Juve sarebbe da terzo posto. Mettili in campo Livornese comunista, rivolto al signor Ma scusami, Allegri. La Morić, abbiamo parlato prima di Maradona, il quale ha quei meriti lì. Sì. La Morić aveva, perché adesso non ce li ha più per una serie di motivi, quegli altri meriti pertinenti, estetici, era una delle diciamo, più belle estetici. Ragazze che io abbia mai visto al mondo. Sì. Ma ti risulta che in qualche momento, eccetera, che la Morić sia adatta a pontificare sull'uno o sull'altro argomento terrestre? No, vabbè, ho capito. No, e allora semplicemente i giornali ne parlano o i siti televisivi perché è l'occasione di mettere lei in foto, non di adesso, ma di 10 anni fa. No, ma la cosa divertente è il campo fuori, mettili in campo Livornese comunista, mi fa impazzire questa sì, cosa. Stiamo parlando di gente che blatera. Io non capisco perché si debba puntare l'interruttore sui blateranti. Ma perché mi diverte che una, ma no, no. Che una scriva Livornese, mettili in campo Livornese comunista, che c'entra comunista? Cioè associa. Ma povera, non mi far dire poveraccia, cose veramente. Sì, io allibisco che questa diventi una notizia da web. Allora, evidentemente Parenzo web continua a dire anche ieri, in conclusione di questa telefonata con Mughini, Parenzo continua a dire anche ieri, di fronte al fatto che una conduttrice televisiva della 7, che si chiama Tiziana Panella, abbia detto, io auspico una persona, la conosci anche tu, caro Giampiero, una persona normalissima, ottima la quale invocava, io spero che arrivino tante fotografie alle mogli di quelli che vanno a prostituta, ha detto proprio così, ed è una vergogna di cui si dovrebbe pentire, una cosa illiberale, profondamente l'unico modo illiberale. Per combattere lo sfruttamento profondamente di queste donne. Illiberale va combattuta modo. Questa cosa e dovrebbe chiedere chi scusa compra, alla signora Panella. Ma perché compra? Siamo passati dalla Morić alla conduttrice? Ti potrei, no, ma semplicemente così, perché io passo da un argomento all'altro. Vabbè, ma oggi diciamo così, nessuno si nega più nulla, dai. No, ma ragazzi, ma poi tu ci vai a nozze. No, ma mi stupisco non del ti fatto... negano più nulla quando vengono da te e tu ci vai a nozze. No, ma non vengono mai. In realtà, signora Panella, ieri parlando di questo argomento qui, ha detto dice una cosa che di buon per senso. Fermare le... già il fatto di voler fermare la prostituzione non si può no, fermare. No, sì, dopo 5.000 anni non è la prostituzione da fermare, che è lo sfruttamento. Ma cosa c'è? Quella c'è la polizia della prostituzione. Davide, non ci fare addormentare ragazzi, con queste menie. Allora, scusami, non ci fare ragazze... addormentare con queste allora, menie. Allora, voi difendete complici... che non ci va, non c'è mai andato. Ma difendete le ragazze sulla strada. Sono 5.000 anni che gli uomini ci ma vanno e quindi ce ne saranno altri 5.000 per andarci. 5.000 malgrado anni te di... la Panella. Ma scusami, c'è lo sfruttamento ma di che donne c'entra? In quello mano ci sono mamma mia. Allora, mamma mia. Mandare dice, mamma mia. Le fotografie. Ragazzi, mettete il vostro pisellino da qualche altra parte. Non c'è bisogno di invocare e legittimare lo sfruttamento di donne sulla salaria. Noi legittimiamo lo sfruttamento? Mettete noi legittimiamo il vostro simpatico pisellino da qualche altra parte. Vabbè, Giampiero, rispondi tu, perché io non ce la faccio più. Ma no, santo Dio, ma veramente è umiliante. Devo mettere a discutere se c'è o non c'è lo sfruttamento. Certo che c'è. Ma cosa me ne frega a me che non c'entro nulla? Però da 5.000 anni, un po' di più, gli uomini vanno a puttane. E allora? Ma come allora? Ho capito. Allora? Non si può cambiare questa cosa, no? Ho capito, ma si deve limitare lo sfruttamento, ci sono la polizia. Mandare le foto a casa. Fermo, stai zitto un attimo. Sì. Mandare le foto a casa della gente, come vuole fare, come vuoi fare tu, come vuole fare la signora Panella, come vuole fare qualche deputato ridicolo del Partito Democratico e di altri partiti, come vuole fare qualche deputato, è una cosa demenziale. Quelle persone vanno fermate, è una cosa illiberale, e qualche deficiente di sindaco. Sono tutti pazzi, siete pazzi, furiosi. Scusami, mandare le foto a casa delle mogli, ma che vuol dire? Dei disabili, ma che stiamo? Ti arriva a casa la multa perché hai commesso una violazione. La gente ammazza una persona, si fa 3 anni di galera ed esce e gli dai una multa a uno che è andato a puttane. Non una multa, chiama la moglie. Ma dai, e gli mando la foto di questi due che in macchina. Poi un matrimonio si fonda sull'accettazione. Ma quello è un altro sull'accettazione, caro David. No, ma io infatti non sono contro sull'accettazione. Ma io non sono contro le corna, dico semplicemente che se uno può fare quello che gli pare. Dico semplicemente che se il maritino usa il proprio pisellino a pagamento per una donna che è sfruttata, se no mi appisolo alle 8:15. E appisolati, amico mio, che ti devo dire? Ciao cari amici. La Nobile e la Marchi fuori dalle palle. La Zanzara. Ragazzi, mi hanno trovato l'amianto sul tetto di casa a Baggio. Il mio condominio vuole prima sistemare le facciate piuttosto che l'amianto. Sono disperato, ma quando torno a casa in treno dopo una giornata di lavoro di merda, ascolto la Zanzara e non me ne frega più un cazzo. Allora ragazzi, la madre di Ilenia, voi direte chi è Ilenia, no? Ilenia è quella ragazza intervistata da Barbara D'Urso, sì, che è stata gravemente danneggiata, cioè ha avuto il fidanzato, molto probabilmente il fidanzato, che gli ha versato addosso della benzina. Lei è andata in ospedale, pare che prima abbia detto sì è lui, poi invece ci ha ripensato, insomma sostiene che non è stato il fidanzato nonostante prove abbastanza evidenti della responsabilità del fidanzato, ha ingaggiato quella specie di litigio con la madre in diretta da Barbara D'Urso, meraviglioso, e insomma è stata accusata di non essere di essere un controesempio per quelle donne che devono denunciare il femminicidio. Vabbè, queste cose qui. La madre ha dato un'intervista a un settimanale, credo che sia Oggi, in cui ha detto: vivo un incubo, ho paura, vi dico la verità, mi vergogno, perché la posizione di Leni è un'offesa per tutte le donne che hanno subito violenza da un uome e hanno trovato il coraggio di accusarlo, cioè accusa direttamente la figlia. La madre si chiama Anna. Alla vicina e a sua zia ha detto subito che era stato Alessio, e anche a me. Quando sono corso in ospedale all'inizio ha detto è stato lui. Poi ha cambiato versione, difendendo Alessio anche in TV. Quando hanno arrestato il suo ex ha perso la testa. Ilenia rifiuta la realtà e da me non vuol sentire ragioni, non si rende conto di essere vittima di un rapporto violento. I psicologi la stanno aiutando, ma ci vorrà tempo. Io la chiamerei la signora Anna, madre di Ilenia. Mettiamo le mani, come si dice, caro Parenzo, nella marmellata. Marmellata. La madre di Ilenia. Pronto? Signora Anna? Sì. Buonasera, qui Milano, Radio 24, buonasera. Buonasera. No, due minuti, le rubo 5 minuti, guardi, non la disturbo di più. No, non è l'avvocato, Ilenia, no. Sì, mi dica. Senta, io volevo capire, ho letto da qualche parte che lei un po' si vergogna di quello che ha detto, di quello che ha fatto in televisione sua figlia, o no? È normale. In che senso è normale? Ma io mi vergogno pure di quello che ha fatto Barbara Susso, onestamente, perché una conduttrice intelligente non va a continuare a fare queste cose. Cioè, doveva interrompere a un certo punto? Certo, è lei che dice, e mica eravamo a Grande Show o Grande Fratello. No, vabbè, lei stava in televisione, ha organizzato un collegamento. Lei era contraria a fare questo collegamento dall'inizio? Certo, da sempre. Sempre. E come l'hanno convinta sua figlia a fare questo collegamento? Non c'ero io. Cioè, sua figlia però ha deciso autonomamente, è maggiorenne, ha deciso... Sì, certo. Io non c'ero, non ho approfittato in quel momento che io non c'ero, perché se c'ero io tutto questo non succedeva. E secondo lei a un certo punto, quando ha cominciato a litigare con lei, doveva interrompere? È normale. Ma perché doveva interrompere? In fondo stava mostrando un tratto del carattere di sua figlia, cioè stava mostrando una parte... No, è una domanda che le faccio. No, perché in queste occasioni, in quel programma, per me è spettacolo, non è un programma serio. Qua si parla di femminicidio, non è che si parlava di Grande Fratello, pure uomini e donne, qua si parla di cose importanti, per cui vabbè, la Dusso, per me deve fare altre cose per me. Cioè non si deve occupare di cose di questo tipo? No. Però stava parlando di un fatto di cronaca. È normale, lei che usa ne pensa, scusi. No, appunto, stava parlando di un fatto di cronaca. Secondo lei l'aspetto con la... Cioè, qual è la colpa che dà la signora D'Urso, lei? Che quando ha visto che io volevo che interrompevano questa cosa, la doveva fare. Doveva rispettare anche i miei pensieri. Ma poi non le ha chiesto di fare una telefonata, di fare un'intervista, poi? No, a me no. Scusi, ma allora perché lei si vergogna di sua figlia? Per quello che ha detto, per il fatto che difende il fidanzato? Vabbè, guarda, devo lo sapere, perché c'è chi mi chiama. In questo momento c'è l'avvocato che mi sta chiamando. No, volevo dirle una cosa, signora. Lei ha solo Parenzo, salve. Lei ha perfettamente ragione su tutto. No. Pronto? Ma in sottofondo chi era? La voce della figlia? Sembrava, qualcuno che protestava però. Cioè no, ma la figlia era in sottofondo. Cazzo, cioè me la sono accorto in ritardo, altrimenti me la facevo passare. Ilenia. Vedi però che avendo queste persone si scoprono tante cose, caro Parenzo. Cioè sono cose anche di servizio pubblico. Cioè questi spaccati di realtà italiana. Beh, adesso, tu vorresti chiedere il canone? Sì, potrebbe essere un'ottima idea. No, ma il canone non lo voglio chiedere. No, il canone della zanzara, quello potrebbe essere ottimo. Sì, ottimo, sì, un canone. Io sono sicuro che se noi ci facessimo dare un euro da ogni ascoltatore, sarebbe buonissimo. Un euro. Ottima idea. Facciamo questa cosa. Un euro. Questo è buono. Beh, buonissimo. Buonissimo. Allora, vi diamo il mio IBAN. No, che tuo IBAN? No, scusami. Tonon, che vuoi? Perché mi chiami Raffaello Tonon? L'ho visto in qualche televendita adesso. Che cosa fa? Non lo so, mi chiama continuamente. Ma non lo so, va benissimo, per carità, ma non insultare tua nonna adesso, perché non ho capito. Uno non può fare la televendita, non ho capito. Ma certamente. Allora. Figuriamoci, immagine. Aspetta, nonno, che vuoi? Sai che sono in diretta e mi chiami al telefonino. Non è che posso metterti in diretta così. Aspetta, vorrei che vuoi? Vorrei dire una cosa. Senti, mandala. Cruciani, manda il traffico che devo fare un pompino. La Zanzara. Allora, Gennaro da Caserta prima, poi vediamo, chiamatemi tuo nonno, dai. Gennaro da Caserta, vai. Gennaro. Oi, coglione, come stai? Eccolo qua. Ecco il tuo. Ecco, io ti devo dire una cosa, ci metto la faccia, guarda. Sì. Approfitto di Radio 24 della Zanzara che per è dire una cosa, di per merda. Dire cosa? Per dire cosa? Per dire, guarda, io fisicamente, no, come sono come te. C'ho quasi la tua stessa età, tutto. Vengo io a Milano, ci chiudiamo tutti e due dentro una stanza a cazzotti, dobbiamo fare. Ma tu sei malato di mente. Tu c'hai le pigne nel cervello, Al posto del cervello, della materia cerebrale. Tu tieni le pigne, No, io ti sto dicendo semplicemente, vengo io a Milano. Sì. Ci chiudiamo. Ma perché? Ma chi ti vuole vedere? Ma chi ti conosce? Schifami, va bene, ma che c'entra che mi vuoi prendere a cazzotti? Perché mi vuoi prendere a schiaffi? Perché mi vuoi prendere a botte? Ma non è che tu dici ci sta fisicamente un divario, ci stanno sproposizioni. Ma non mi interessa, ma qual è il motivo di questa tensione? Ma non lo so questo Gennaro cosa vuole da me. Ma di darti un cazzotto in faccia e spaccarti sta faccia. Veramente. Ma io devo... Può darsi che me ne dai pure tu a me. Non te le voglio dare, non ti voglio proprio toccare né vedere né toccare, no. Questo è il punto. Non ti voglio né vedere né toccare. Ma io ho detto questo, io te lo volevo dire perché ti schifo come persona, un fatto ma tu di orgoglio, puoi schifare quello che vuoi. Va bene, ma va benissimo, tu puoi schifare quindi chi vuoi. Quindi se non ti piace uno lo vuoi prendere a cazzotti. Botte, io te lo sto dicendo, ti sto dicendo che ti schifo come uomo, come conduttore, va come benissimo. Persona. Intanto chiama, cioè, intanto chiama. No, ma io ti sento pure. Ma tutto questo per la vicenda Maradona? Chiedo scusa, professore. Pure per questo, no, per il fatto che per la vicenda Maradona, sì. A Roma non elogiano pure a Totti, no? Ma infatti io anche l'idolatria di Totti non sopporto nemmeno quella, cioè non sopporto. Quel coglione di Mughini, no? Siccome un po' di tempo se l'erano dimenticato tutti quanti, ci mo faccio un po' di casino così a Napoli, magari mi metto. No, ma il casino l'avete fatto voi al San Carlo, non l'ha fatto, cioè il casino. Comunque ho chiamato per dirti che se ci. Te l'ho detto, ci metto la faccia, guarda pure sul numero di telefono, ci sta la mia foto, vedi come sono fatto, sono tale e quale a te. Ma tale e quale a me non credo, pure. Perché sarai sicuramente... Facciamo a botto, guarda, ci tengo a ma perché? Ma io non, no, ma io non ci tengo a fare botte con te. Ti giuro, tengo lo spizzo, ma guai a te se ti incontro, mi sei antipatico come uomo, ma proprio ti schifo perché sei l'essere più spregevole e io non so come faccio a... La Confindustria ha dato il microfono a darti un microfono. Ma tu manco sai che cos'è la Confindustria perché nel cervello c'hai le pigne, non la materia cerebrale, hai le pigne. Tu nel... È quella che vi paga a voi. Sì, questo sicuramente. Nel cervello, tu non hai la materia cerebrale che pulsa. Ma tu ce l'hai il coraggio? Le pigne. Tu sei qua, questo. Ma avere le palle non significa fare a botte. Cioè, avere le palle non significa fare a botte. No, nella tua mentalità malata significa. Nella tua mentalità malata. Ma difenditi da uomo, gli uomini veri. Difenditi da uomo. Vengo io a Milano, ti vengo a trovare a Milano, ti sto dicendo. A questo non credo perché ti ho già segnalato, segnalato ai signori della Digos. Ma segnalami dove cazzo vuoi, dove sono una persona che lavoro per bene, non c'è niente. A me che c'entra? Beh, per bene adesso. Sono privilegiato come ma a te, che una persona per bene non te le. Però una persona no, per veramente bene. Sono pochi 15.000. Una persona per bene non chiama l'800240024 per minacciare in diretta per bene, una persona, però, hai capito? Non si mette neanche a buttare il fuoco, la benzina sul fuoco. La benzina, io semplicemente espongo mie opinioni. Se ti piacciono, bene. Però le tue opinioni sono esposte perché sei una persona pubblica, c'ha un microfono. Che rappresenta un network nazionale, e allora? E allora che problema è? Allora che cosa? Devi fare informazione seria e filtrata. Non devo fare informazione. A parte l'informazione seria e filtrata, non mi sembrano che vada pari passo. Lucia, comunque, mo adesso mi sono stufato. Te l'ho detto, io ci ho messo la faccia. Il numero sì, è questo qua. Hai messo la faccia, ma in che cosa? Vengo messo io a Milano, ci incontriamo e ci prendiamo e ci facciamo sta. Che uomo sei? Ma porta pure una pistola. Porta pure una pistola. Porta una pistola. Gennà, porta una pistola. Ciao, ciao. Tonon, dimmi. Buonasera, Cruciani. Tonon, che succede? Come mai mi chiami? Ciao. Cosa hai ascoltato? Quanto tempo che non ti fai sentire? Che ti è successo? Ti sei messo a fare delle vendite, dei materassi? Ma io, guarda, sono sconvolto dal fatto che Sgarbi si accanisca contro quel giovane Zorzi che ieri sera ha partecipato ad Agorà dicendo che è un esempio della debacle degli insegnanti, della società, dei genitori, della famiglia, e poi avete appena messo in onda questo che almeno 10-15 anni più di Zorzi ce li ha, ed è, voglio dire, che cosa? Cioè, se Zorzi è un cattivo esempio per i giovani, è l'esempio della fine della società dell'Italia, perché è un giovane viziato, ricco, che non sa che cosa fare, un coglione, ma questo che abbiamo appena sentito, che cos'è? No, ma questo, vabbè, questo è chiaro. Cioè, questo è un subumano, amico mio. Ma di cosa stiamo parlando? Un subumano. Allora, ma tu ti sei incazzato perché non condividi la critica di Sgarbi sui jeans? No, io guarda, Sgarbi lo condivido sempre, l'ho condiviso quasi sempre, ieri sera veramente mi ha indignato. Ma perché? Per i jeans rotti? Ma no, ma perché prendersela con un ragazzino che l'unica colpa che ha è quella di essere laureato a 21 anni, che si gode la vita, che è figlio di gente, che lavora, guadagna, che ha avuto una bella e pesante eredità, che è entusiasta, che porta porta gioia a se stesso. Ma no, ma per me non c'è problema, uno può fare quello che vuole, figurati, cioè non è il ragazzo è educato. educato, è brillante, risponde. Il servizio, devo dire, è stato anche montato male e nella trasmissione sono state anche poco corretti, perché hanno continuato a parlare di lui quando lui è uscito dallo studio. Però amico mio, però, se uno dice se uno dice mi ispiro a Bacchi e all'Apo Elkan, anch'io esco in pigiama, tu capisci che inizi male, cioè, non ti poni bene, cioè, dice esco in pigiama, esco in pigiama, ma ragazzi scusate, è un ragazzo di 21 non fa male a nessuno, certo, non fa male a nessuno, ride, scherza. Siamo partiti da lui per arrivare poi a un caso di cronaca terribile di questi due ragazzi disadattati purtroppo per mille ragioni, che hanno ammazzato i genitori, i due amici che hanno ammazzato. Ma quelle sono le trasmissioni, fanno così, passano da una cosa all'altra, ragazzi, dai. Ora questo Sgarbi che dice questo è un coglione, questo con i pantaloni bucati, questo, ma non si può prendere. Vabbè, ma lui se l'è presa per questi jeans bucati, fa una polemica da tempo contro quelli che portano i jeans tagliati. Vabbè, perché... ma ci può anche stare, no? Ma sì, però ma ha detto anche che è un modello per un popolo di coglioni come lui, vabbè, sì. Ma un modello di popolo di coglioni, ma questo è un ragazzo che è un laureato, perché se noi ascoltiamo, poi tutti che ce l'hanno contro un laureato, questa ricarta, in Italia sono tutti laureati, dai, su. Ok, ma che ragionamento è? Ma allora togliamo la laurea e diciamo che allora se la laurea non ha più valore, che fa... no, la laurea, ma lascia stare, cos'è che fa rabbia di questo, rabbia poi, a me non me ne frega niente, di ma... questo, a me frega niente. Ma no, infatti, me ne frega niente. Ma cos'è che fa può far rabbia di questo ragazzo? Semplicemente il fatto che la sfrontatezza, se vuoi dirla così, la ricchezza bisogna vergognarsi. Ma della a me non me ne frega niente. Ma infatti a me non fa nessuna rabbia. Dico, ma cos'è che può indignare? Cioè, non si vergogna della ricchezza, dai, non si vergogna della ricchezza. Ma perché? Esatto. Ma mica è figlio di narcotrafficanti questo? Ma scherziamo? No, ma però uno che dice ma... io ogni tanto i miei genitori mi riprendono perché spendo un sacco di soldi, spendo migliaia di euro per un cappotto. Ma benissimo, per carità. Cioè, non c'è niente di strano, però io in realtà non l'ho criticato, ho detto siccome sono degli italiani che rompono i coglioni a Bellofigo, il quale è un morto di fame che guadagna qualche migliaio di euro, prendetevela con questo se dovete prendervela con qualcuno, non con Bellofigo, o no? No, invece io me la prendo con Bellofigo perché dice noi vogliamo le puttane bianche, noi vogliamo rubare le biciclette, noi non vogliamo pagare l'affitto, e invece è Bellofigo. Le puttane bianche, dice le donne bianche, dai. Dice le puttane bianche, è un coglione, Mussolini, è un coglione che dice che va preso a calci in culo, scusate questi termini io non no, li amo, per carità, noi non usiamo mai più figure, Bellofigo va preso a calci in culo, no. Bellofigo va, certo, perché Bellofigo aizza, purtroppo aizza gli animi contro gli immigrati per bene che vengono qua a cercare di lavorare e a incrementare il PIL di questo paese. Pensa come te, Parenzo, la pensa come te. Zorzi invece vive del suo, lavora, studia, del suo, fa i fatti suoi. No, del suo no, vive con i soldi dei genitori, diciamo. Che è il suo, perché non è il suo. Non ha fatto un cazzo, è uno che non fa un cazzo e vive alle spalle dei genitori e ostenta questa cosa qua. Va bene, perché non vive alle spalle. Beh, come no, alle spalle dei genitori, capitali della propria famiglia. Beh, ho capito, è uno che si vanta di tutte queste cose qua. Non si vanta, lui racconta qual è la cronaca della sua vita. Scusa Giuseppe, tu sei un giornalista, lui racconta. Ma no, ma io non ho nulla, perché io vivo così. E cosa deve dire? Che vive in mezzo ai cartoni, viva Dio. È uno che ha delle possibilità guadagnate onestamente da chi che sia, parenti suoi, sì, e fa bene a vivere così. Ma in questo paese tu dici Sgarbi che attacca la ricchezza è ridicolo, dici. non mi piace Sgarbi che attacca la ricchezza, no, ma non che attacca, ma non la ricchezza, attacca che la ricchezza, attacca un ragazzo, attacca questa ostentazione, questo modo, ma di non no, ostenta, anzi, niente, ma... questa mancanza di consapevolezza del privilegio nel quale sta, ecco questo, ma, è il punto, ma non è attacca questa consapevolezza mal riposta, perché tu puoi essere nato bene, ma perché bene, cosa dovrebbe fare lui? Cosa no, ma voglio dire, ma un giovane soldi? Che ma io penso che se anche fossi un multimiliardario, comunque non andrei in televisione a dire ma ancora non so del mio futuro, però intanto spendo i soldi del papà. Penserei, vista la immensa fortuna che la vita mi ha donato. Vabbè, invece questo qua lo dice, meno male che lo dice da un certo punto di vista. Ma quindi è quello bene, che ciao, desta. Ciao Donon, ciao. Ciao. Anche tu sei omosessuale. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La zanzara. ditino. Se metti il ditino nel culino, si rompe la mucosa. Topolino. Mio Dio, ma è stupenda. Ma sono l'unico che si è eccitato mentre parlava e cambiava voce. Diceva la mucosa. È stupenda. La voglio in prima serata da Vespa spiegare la mucosa. Il topolino. E adesso, caro David, il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardo avanti. Ascoltatori, vai. Servi di Roma fuori. Io personalmente porto avanti le mie battaglie e ne sono fiero e orgoglioso di essere leghista fino alla morte. Perché ho mollato la donna per questo. Lei mi ha detto o me o la Lega. Io ho detto scelgo la Lega. E lei mi ha mandato a quel paese e ne sono fiero. Questo ha mollato la donna per la Lega. Adesso interviene un ascoltatore contro Varin. Ma fai un coglione. Pronto? Buongiorno. Tu sei una testa di merda, vaffanculo. Grazie, era proprio questo che volevo sentire. Era un po' che non mi dicevate niente ed ero quasi preoccupato. Pensavo che voi negretti foste tutti quanti innamorati di me. Molti di voi sono gay, lo so, si proclamano tali per non essere rimpatriati. Bastardi. Prima o poi lo scopriremo se siete gay oppure no. Ci sarà un sistema. Varin. Ma questo è mostruoso. Cosa ridi? Questa è una roba mostruosa. Questo è mostruoso. Giorno, notti, non fanno niente. Loro non fanno niente. Arrivato apposta loro qui solo per essere presiti. Padania libera, viva la Lega, Sami. Bella e libera, guarda avanti. Qui sono sul gomoni, vanno, fanno 200 metri e poi vengono i nostri scafisti a prenderli. Ladri, farabutti, schifosi, i nostri scafisti pagati da me. Quelli sono i suoi scafisti, quelli della nostra marina. Caccia oltre il fiume. Io pensare fare grande imbarco con Jumbo, portare questi lavoratori biondi e alti svettanti in Siberia per lavorare veramente, dopo estrarre carbone e poi portare in loro paese con più piccola mancia per lavoro eseguito. E noi italiani liberati tutti finalmente da questa zavorra. Bella e libera, guarda avanti. E sentivo anche oggi Mattarella che diceva, che si complimentava con Tajani e diceva che adesso possiamo pensare all'integrazione. Ma che si vergognano. Ancora Varin, dare un calcio in culo ai sedicenti profughi. Aiutare immediatamente gli allevatori e tirare un calcio in culo ai sedicenti profughi che occupano alberghi, caserme, resort, rimandandoli immediatamente da dove sono venuti. Padania bella e libera. Brutti poi, pezzi di merda, occupatevi della nostra gente che sta morendo dal freddo nelle tende e vive nella paura per il terremoto invece di importare clandestini che non ci servono un cazzo. Cioè, governo, questa è un po' la versione volgare di Salvini. Brutti pezzi di merda, occupatevi della gente che sta al gelo e non dei clandestini che non ci servono un cazzo. Io, ma mi sembra che sia addirittura peggiorata quella radio. Mi sembra addirittura peggiorata. Guarda. Cioè va chiusa secondo te definitivamente dalla magistratura. Andava già, questo in passato andava dalla già, sì. magistratura. La magistratura dovrebbe andare lì domani con i sigilli. Sai come si mette nelle scene del crimine? Hai presente le scene del crimine che si circonda con quel nastro, no? No dai, poi si mettono, sì, dai, poi si mettono i sigilli, scritto locale sottoposto al sequestro dell'autorità giudiziaria, i timbri, si prende Varin, non lo si porta in cella perché il ragazzo va curato. E io infatti sono perché le persone che hanno dei problemi mentali, cioè sono le persone disturbate, vengano curate, dici. Esattamente, bravo. Comunque scivola la penna verso l'inguine della pagina ed in silenzio si raccoglie la scrittura. Questo foglio ha i confini geometrici di uno stato africano in cui disegno i filari paralleli delle dune. Ormai sto disegnando mentre racconto ciò che raccontando si profila. È come se una nube arrivasse ad avere forma di nube. Valerio Magrelli, scivola la penna. Tu lo sai che non si capisce un cazzo delle poesie di Magrelli, cioè, come la maggior parte delle poesie dei, no, dei sedicenti poeti. Non dico che Magrelli è un sedicente poeta, però sto dicendo, non si capisce tecnicamente, sempre una mazza. Scivola la penna verso l'inguine della pagina. Ma che vuol dire? Cos'è che non capisci? Linguine... Possibile che la tua brutalità umana capisce queste schifoserie, queste fogne che fai sentire e non riesci a capire l'essenza della poesia? Guarda, scivola la penna verso l'inguine della pagina. Qual è l'inguine della pagina? Sì. Magrelli, dopo due giorni, possiamo dire calcia c'ha sfranda catawallara. Come si permette? Enrico, ma come vi permettete? Ma che gente siete? Vai. Questo foglio vede i confini geometrici di uno stato Enrico africano. Latina, dai, ma è bellissimo, Latina, ragazzi, ma non capite. Ciao, niente. Dimmi. Vediamo questo cosa dice. Buonasera, io ho due cose. Sì. Ci tenevo intanto a farti i complimenti. Ma non me ne frega niente, Enrico. Sono... Uno è il diritto sacrosanto di poter esprimere il proprio pensiero, e non è pensabile che non si possa parlare di gay, perché si svilisce subito in omofobia. Se uno dipende. Ha qualcosa da dire che va contro questo pensiero, vabbè, Enrico, ma di che stai parlando? Parlami di una cosa, ti prego. Dici che è giusto insultare Demani, cosa hai da dire Demani su questa cosa qua? Va radiata, non va radiata, non mi fare un pippone pure te. No, assolutamente no, perché comunque sia dice cose che sono ineccepibili. Tipo? Parla di... Che cosa è ineccepibile? Cioè, del fatto che Stellano non è fatto per determinate attività, ma eventualmente può essere fatto, come lo faranno anche in tanti eterosessuali, così come vezzeggiativo, insomma, come vezzeggiativo, vezzo a letto. Ma vezzo, perché tu non hai mai inculato nessuno, tu, amico ecco mio, hai inculato qualcuno, sì o no? Sì. Ecco, sempre il linguaggio evocativo, il linguaggio immaginifico. Non ho capito, allora... E allora, una vagina è concepita per poter passare una notte intera a essere messa al galoppo. Un culo, mi dispiace, ecco, caro Cruciani. Sì, no, sì, un caro culo. Cruciani, l'individuo, cioè, tu stai dicendo che sono un settimana. Consesso autorevolissimo. No, però Enrico, adesso alla fine spronato da me ad andare su un terreno della sul terreno della concretezza, diciamo, concretezza, è arrivato ad una ad una conclusione finalmente, perché era partito col pippone. Sta dicendo una cosa concreta, cioè ha ragione la signora De Mari, perché dice: mentre la vagina è abituata a certe prestazioni, il sedere, l'ano, come direbbe la professoressa De Mari, l'ha detto lei, non è abituato. Sostiene questo Enrico da Latina, capito, caro Parenzo? Giusto, Enrico? Parenzo purtroppo va oltre ogni oggettivo dato. Perché? È vero, è col pippone un'altra volta. Parenzo va oltre l'oggettivo dato. Ma cosa vuol dire? Cioè, va oltre... Le malattie che vengono trasmesse sono i dati ne parlano chiaro. Ma a me non interessa l'argomento, non c'è nessun dato che come dice no? Questa roba. Non c'è nessun dato. L'OMS ma che cosa? Che cosa ha detto? Che cos'è viene l'OMS? Nel 19% solo da uomini. E beh, allora si sa cosa arcinote. Ma si sa cose che si sanno, allora? Lo sai che io sono arrivato a una conclusione, Enrico, che secondo me tu lo pigli in culo. Secondo me tu eccolo lo pigli... qua, vedi, cioè, 44 la mia previsione. Arriva secondo me tu lo prendi in culo. L'aforisma. Cioè, io sono arrivato culo, secondo me sì. Coraggio. Cioè, secondo me sì. Cioè, secondo me no. Sì, secondo me a te piace il pisello. Provarci, lo vedi, lo vedi. Mi piace ottenerlo dalla mia lei. Cosa? Ottenere un rapporto anale, non so, ipocrita. Cioè, si eleva il discorso, mi pare. No, mi pare che si alzi il dibattito proprio. No? Si eleva il dibattito. Secondo me, secondo me sei anche un po' passivo. Sei anche un po' passivo. No, mi dispiace, su questo non ti posso aiutare. Ma però non ti posso aiutare, se non devi aiutare me, amico mio, non devi aiutare me. Effettivamente. La patatina ha il suo farà piacere alla sua compagna che sta ascoltando la trasmissione il fatto che lei abbia voluto diffondere Urbi e Torbi questa sua passione. Sua moglie sarà molto contenta di questa sua pubblica confessione, sono compagna. Sicuro. Ciao Enrico, ciao, ciao. Pubblica confessione, insomma. Ciao, ciao Enrico, ciao. Vedrà. Però. Allora, voglio farti notare che un giornale oggi titola: la Cirinnà insiste con il matrimonio gay. Poi arriveranno nozze a tre e incesto? Cioè, io dico, ragazzi, ma come cazzo si fa a pensare cose di questo tipo? C'è gente ancora che pensa che dopo il cosiddetto matrimonio gay, che peraltro non esiste, arriveranno nozze a tre e incesto, per non parlare di quel rincoglionito di ieri, un pediatra di Varese, il quale ha detto, sempre sullo stesso giornale, peraltro, chiamasi La Verità, che ha detto che i figli dei divorziati hanno maggiore possibilità di avere il cancro. Cioè, mia figlia e tua figlia, caro Parenzo, avrebbero, secondo questo coglione, ma per carità avrebbero di Dio, maggiori possibilità di prendersi il cancro, nonché varie cose, tra cui obesità, alcolismo e varie cose. Cioè, i figli dei divorziati, secondo questo coglione di pediatra, che io considero un coglione per quello che ha detto, se lo ha scritto, se le cose sono di porta, secondo me. Poi dice: ci sono i dati, ma quali dati? Sono tutte cose ridicole, dati magari presi da 100 persone in Svezia o non so dove, dai, su. Nicola da Napoli, vai. Ciao caro. Dimmi. Ascolta, solo una cosa, un messaggino giusto a Mucchini per il discorso di prima. A Napoli c'è chi ascolta il neomelodico, ci va a vedere lo stadio, e chi gliene frega quanto basta del Napoli e di tante altre cose. Cioè, non è solo di tifosi napoletani che praisano perché viene Maradona. Chi e allora? Ragazzo Maradona. E allora questo, cioè, il Napoli non è fatto solo di i tifosi napoletani che ci hanno, non lo so, si ammazzerebbero per il Napoli. Cioè, a te per esempio non frega un cazzo, immagino, del Napoli. Me ne frega quanto basta, ma cioè non è che spenderei soldi per premium o altro per vedere il Napoli, oppure per Maradona, oppure per stai dicendo a Mughini, Napoli non è solo chi è impazzito per Maradona. Francesco da Milano, vai. Sì, pronto? Dimmi. Sì, ciao ragazzi, volevo salutarvi innanzitutto, poi volevo spezzare una lancia a favore di Parenzo. Eccoci. Perché non c'è bisogno, mi piace di brutto quando fa la scenetta che dice a un certo punto basta, adesso bisogna fermarsi. Ma non è una scenetta, la trasmissione. Non è una scenetta, ma chiuso, non è una scenetta. Ma che vuol dire che ti piace questa cosa? Dimmi. Che vuol dire? Mi piace, a dispetto di molti altri radioascoltatori che dicono che questa cosa qua la odiano, eccetera. No, io ma vorrei che Parenzo la facesse almeno 2 o 3 volte al giorno. No. Mi piace molto. Va bene, Emanuele da Prato. Però vai. Secondo te è una notizia questa roba che continua a rimbalzare nella rete, dove c'è gente che posta su Facebook il capitano? Ma io voglio dire, ma ragazzi, poi uno dice ce l'ha con la Lega, sì, ma non è vero. Il capitano ha annullato Salvini, tutti gli impegni, sì, e domani incontrerà e ascolterà i nostri fratelli abruzzesi colpiti neve, gelo, esondazioni, terremoto. Hashtag prima gli italiani, ultima ora, scritto carattere cubitale. Ultima ora di chi? Giovedì Salvini in Abruzzo per incontrare e aiutare i cittadini colpiti da neve, gelo, esondazioni, terremoto. Non si fa vedere là. Ore 9:30 Pescara, ore 11:30 Teramo, ore 15 Napoli. Ma che è un concerto, ragazzi? Ma che roba è? Allora, vai, chi è? Chi c'è? Hashtag prima gli italiani. Vai, Emanuele, vai. Nice. Allora, chiamavo perché Richard Benson aveva chiesto un aiuto a tutti i suoi fan e chi poteva dargli una mano, per chi non ha più una lira, sta male e tutto il resto. Allora? E allora mi sono mosso anch'io, che non sono suo fan, e ho donato sul suo sito Richard Benson Vive 20 euro e a fronte dei 20 euro ti regalavano un CD. Non allora? È mai arrivato il CD. E allora dal primo di dicembre che ho fatto la donazione, che era al minimo 15 euro per un CD, ne ho donate 20 e non è arrivato mai il CD. Cioè, tu stai dicendo che queste donazioni sono per ottenere il CD, comunque sono una truffa pazzesca. Come ricompensa danno un CD. Allora, al posto di donare 5 euro ne doni 20 e ti dà anche il CD. Però non ti è arrivato un cazzo. Non è arrivato un cazzo, soprattutto arrivato sul sito per vedere i commenti della gente e praticamente siamo stati tutti isolati. Cioè, praticamente dicono di dare un CD, ma in realtà non arriva nulla. Quindi anziché dei allora, nani, allora loro CD, ti dicono CD, offri quello che vuoi, oppure c'è, se offri 15 euro è una ricompensa. Ho capito. Se ne do 20, almeno hai di più per aiutarti e prendo il CD. Il CD non è che mi interessa da morire, però vabbè, ho capito. Però a me mi piace tutto. Emanuele, la musica, bene o male. Emanuele, chiudiamo così. Ciao.